senza te è come un vasto mare senza acqua, è come una festa di piazza senza musica, come un aquilone ruggente senza vento, come una notte d'estate senza lucciole, come una montagna imperiosa senza neve, come una parola d'amore senza dolcezza, come una favola senza principe. Mi manca il tuo respiro sulla mia faccia, le tue ginocchia piegate contro la mia schiena, le tue domande invadenti e il tuo sorriso. Senza te è come un vasto mare senza acqua, come una festa di piazza senza musica, come un aquilone ruggente d'estate, senza lucciole, come una montagna imperiosa, senza neve, come una parola d'amore. Le tue ginocchia piegate contro la mia schiena, le tue domande invadenti, il tuo sorriso. Buonanotte. Ovunque tu sia, amore mio.